La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Sono le 16:08, primi precisi in questo secondo. Da una bigerrima a Milano vi saluta Oscar Giannino e vi ringrazio dell'ascolto in diretta o in podcast. E vi dice subito di che cosa parliamo. Oggi parliamo di diversi aspetti che sono tornati grazie a una raffica di pareri dell'antitrust di attualità sui giornali, nella comunicazione pubblica, e che riguardano tutti la concorrenza, perché l'antitrust ha emesso diversi pareri in cui boccia alcune delle norme fondamentali di cui avete più sentito parlare in queste ultime settimane, o perché erano nel decreto fiscale pre-legge di bilancio, il cui esame è terminato mentre già era cominciato quello della legge di bilancio, oppure sono in legge di bilancio. L'antitrust in particolare ha bocciato, per quello che riguarda la legge di bilancio, la cosiddetta tassa con la ritenuta d'imposta Airbnb. Naturalmente gli albergatori protestano, ma l'ha bocciata perché ritiene che questa tassa sul sostituto d'imposta in realtà è un ostacolo alla concorrenza tra chi utilizza piattaforme, ed in particolare l'ostacolo a quelle digitali e l'ostacolo ai pagamenti digitali, oltre ovviamente agli oneri impropri dovuti al fatto che si diventa sostituti d'imposta. Come vi abbiamo spiegato fin dall'inizio, questa imposta che nasce nella testa dei proponenti, l'onorevole Boccia, tanti altri in Parlamento, per colpire come al solito la solita multinazionale, cioè Airbnb, ha finito per colpire in realtà gli intermediari italiani, ma soprattutto a creare un ostacolo alla concorrenza per l'esercizio e l'ingresso all'esercizio di questo tipo di particolare di offerta che, lo ripeto per la 700.000.000esima volta, è in maniera irriducibilmente diversa da quella dell'offerta alberghiera. Lo so, gli albergatori la pensano diversamente, però in questo c'è la bocciatura del parere antitrust. Io dico, se tratta di bocciature, attenzione, che non sono vincolanti, però danno ragione a chi, come il sottoscritto e altri quattro gatti, tentano disperatamente di far fare passi avanti alla concorrenza e non indietro alla concorrenza. Dopodiché, uguale bocciatura la norma prevista per la SIAE, e uguale bocciatura, ed è per questo che vi chiedo di telefonare soprattutto all'800 24 00 24, per l'equo compenso dei professionisti, che era invece compreso nel decreto fiscale. Quindi diteci come la pensate chiamando l'800 24 00 24. L'iter di questa norma, che in qualche misura, sia pure sotto la definizione dell'equo compenso, reintroduce le tariffe minime nel nostro ordinamento, è nato come emendamento al testo del decreto fiscale, dopodiché nell'esame dalla professione forense, che era quella a cui veniva circoscritto l'equo compenso, è stata estesa a tutte le professioni ordinistiche, e l'autorità per il controllo del mercato, quindi l'antitrust, torna, come in passato aveva fatto più e più volte quando erano vigenti le tariffe minime, a bocciare questa misura perché la ritiene lesiva della libera contrattazione tra cliente e professionista della tariffa. Io sono particolarmente interessato a capire come la pensate. Telefonateci, perché anche in questo caso c'è stata un'immediata levata di scudi da parte di diverse associazioni delle professioni, per esempio il Comitato Unitario delle Professioni, la Rete delle Professioni Tecniche, che hanno immediatamente chiamato a raccolta per manifestazioni e mobilitazioni. Ce n'è una, per esempio, al Teatro Brancaccio a Roma il 30 novembre, tra due giorni, risottolineando con la politica che invece l'equo compenso è un diritto che serve a tutelare chi nella crisi è stato colpito. È verissimo che le professioni sono state colpite, abbiamo visto anno dopo anno la discesa del reddito medio dichiarato da parte di professioni come architetti, ingegneri e così via, e avvocati. Però il mondo si divide in due, per così dire. C'è chi dice che questo tutela i soggetti più deboli, e c'è chi ritiene invece che non sia affatto così, da questo punto di vista, e cioè che i soggetti deboli restano soggetti deboli e che in realtà la tra virgolette tariffa minima serva solo ovviamente più ai soggetti forti che ai soggetti deboli, perché è una specie di calmiere alla libera formazione dei prezzi e delle tariffe. Allora chiamateci per dire la vostra, ma non vi dimenticate, perché è da qui che voglio ripartire, che noi abbiamo un precedente a queste bocciature da parte dell'antitrust, dell'equo compenso, della tassa Airbnb, delle norme sulla SIAE. E qual è? È il lunghissimo iter triennale praticamente della legge sulla concorrenza, che nacque quando nacque il governo Renzi, che è arrivato in porto pochi mesi fa nel governo Gentiloni, in realtà privata di qualunque dente o quasi a favore della concorrenza. Ricordate il dibattito ancora attuale che è in corso sulle concessioni demaniali, dove la gara tra tutti i partiti è a voler regalare a chi ce l'ha oggi per altri 50 anni e così via. Naturalmente nessuna portabilità nella legge di concorrenza della previdenza pubblica in quella privata, tantissime le misure che c'erano nel testo originario e che poi sono venute meno. È stato posticipato la caduta del segmento del mercato elettrico al consumo ancora socialmente tutelata, e c'è stato chi ha sostenuto che si tratterebbe di un regalo all'Enel, e così via. E di qua vogliamo ripartire, perché c'è una vicenda tra tutte delle mancate liberalizzazioni italiane che forse è una delle più antiche, che di volta in volta ogni anno si ripropone e ogni anno viene bocciata. E qual è? È quella che riguarda la facoltà da consentire alle parafarmacie dei farmaci di fascia C, cioè quelli che hanno bisogno di una prescrizione medica, ma il cui costo è interamente a carico dei consumatori. Da anni il tentativo è quello di portare questa fascia di farmaci nelle parafarmacie, virgola, che sono la componente dell'offerta farmaceutica italiana al consumo che più ha consentito la riduzione dei prezzi certificata in questi anni nel nostro paese, e tutte le volte che ci si è provato, il politico, cioè i partiti, hanno smontato la proposta dicendo no, no e poi no, devono rimanere prerogativa delle 18.500 farmacie che operano in Italia. Si tratta di un segmento di mercato di alcuni miliardi di euro, quasi 4 oramai, anche in questo caso però vengono sottratti al beneficio per il cliente finale, che è avvenuto puntualmente invece nei preparati che alle parafarmacie sono state consentite dopo una battaglia terribile iniziale anche in quel caso delle farmacie. E proprio da questo voglio ripartire, perché è un caso emblematico in cui, malgrado sia noto e certificato che ne potrebbe derivare solo un beneficio, virgola, malgrado sia noto e certificato che non ci potrebbe essere in alcun caso, in nessun modo, un rischio per la sicurezza dei cittadini per abusi di farmaci e così via, ciò malgrado ogni volta la cosa viene bocciata, perché beh, evidentemente sono bravi, è brava la rappresentanza dei farmacisti. Ma di questo, sul supplemento economico Affari e Finanza di Repubblica, che è uscito in abbinata a Repubblica ieri, il 27 novembre, ci ha molto colpito una bella pagina di intervista di una delle persone che più in questi anni si è dato da fare con voce pubblica a favore dei temi della concorrenza, cioè l'amministratore delegato e direttore generale di Conad, Francesco Pugliese, che ringrazio per averci regalato un po' di tempo ed è qui con noi oggi pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie, Pugliese. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Lei come la vede questa vicenda che da anni, voi naturalmente le avete le parafarmacie nella vostra rete distributiva, però ogni anno sembra che sia lì e ogni anno invece niente. Guardi, questo è uno dei casi credo più emblematici di quanto questo paese non riesca a scrollarsi di dosso e a liberalizzarsi. Questo è proprio, noi abbiamo anche una campagna che si chiama appunto Liberalizziamoci, andando lì e chiedendo firme ai nostri consumatori. Siamo arrivati a 180.000 firme che abbiamo consegnato al governo, alla presidenza del Senato, alla presidenza della Camera. E qual è il tema? è un dato di fatto, tra l'altro certificato non da noi, ma certificato da Assosalute e Federchimica, il prezzo medio praticato dai farmaci, senza obbligo di prescrizione, proprio questi SOP che sono andati in vendita nelle parafarmacie, nelle farmacie è di 8,5 euro e di 7,7 nelle parafarmacie indipendenti e di 6,2 nelle parafarmacie della grande distribuzione, sempre di euro parliamo, quindi con una notevole risparmio. Questo tra l'altro ha comportato, dati anche questi certi e certificati, che dal 2005 al 2013 nel canale delle farmacie, al contempo, grazie a questo tipo di intervento che comunque ha calmierato i prezzi generali al consumo, che cosa è accaduto? Che i prodotti in oggetto hanno avuto un incremento del 12%. Negli 8 anni precedenti l'incremento su quei prodotti era stato del 35%. Tenga conto che questa campagna, che peraltro agisce su tutta una serie di farmaci, e quelli di classe C lo sono ancora drammaticamente di più, e quei 4 miliardi di cui si parla, siccome mediamente noi riusciamo a vendere da un minimo di un 15 fino a un 25% in meno rispetto al prezzo della farmacia, che dovrebbero essere venduti anche quelli di classe C in maniera liberalizzata nelle farmacie, ma non c'è nessuno che non vende che al prezzo che è riportato sul pacchetto, cosa che invece è cambiata totalmente nei prodotti che vengono venduti in farmacia. Se solo si risparmiassero quel 20% medio, così come abbiamo ottenuto su quell'altro fronte, stiamo ragionando della bellezza di 800 milioni. Ma sono 800 milioni che oggi stiamo cacciando dalle tasche di tutta la popolazione italiana, che tra l'altro proprio nell'ambito sanitario sta avendo grandi difficoltà per spendere, e questo è un ulteriore dato. Mi faccia dire che questo punto è molto importante, perché noi non dobbiamo dimenticare, cari ascoltatori, che ai 112 miliardi stabilizzati negli ultimi anni del Fondo Sanitario Nazionale, cioè il cui incremento di anno in anno è poco più o poco meno in realtà della crescita del PIL nominale, mentre anni fa stava galoppando a deficit e debiti incredibili, quindi molte regioni sono state costrette al rientro coatto del debito, ma al di là di questa cifra, che è quella del Fondo Sanitario Nazionale, gli italiani spendono di tasca propria per la sanità, ci aggiungo di tasca propria, 36 miliardi. Allora, questi 36 miliardi hanno un effetto, come è ovvio, cari ascoltatori, regressivo, perché è ovvio che la spesa farmaceutica e sanitaria sobbarcata dai privati non guarda in faccia alle classi di reddito, ma ha degli effetti totalmente regressivi, con gli effetti quindi che magari chi ha meno deve contenere, come è puntualmente avvenuto negli anni di crisi, dal consumo di farmaci a quello di cure, terapie, interventi, perché ovviamente non ce la fa. Quindi il contenimento del costo farmaceutico che avviene attraverso economie di scala del mercato serve anche a rendere meno iniquo la componente della spesa privata sanitaria e farmaceutico italiana. Eppure invece non si fa nulla, e in più le motivazioni date sono motivazioni che hanno veramente del ridicolo, e peraltro sono anche false e tendenziose. Non esiste nessuna parafarmacia della grande distribuzione che sia all'interno del negozio della parafarmacia. Non è vero che si vendono i farmaci insieme con la mortadella, come dice il presidente dell'associazione dei farmacisti, ma sono invece dei locali totalmente separati, indipendenti, nei quali c'è un farmacista, e un farmacista, visto che lo slogan che avevano lanciato per bloccare questa campagna era la farmacia dispensa salute e non mortadella, il farmacista non è che perché se ha il camice bianco ed è sotto la croce di una parafarmacia della grande distribuzione è un salumaio, mentre invece se sta all'interno delle mura di una farmacia diventa d'amblè un farmacista. Sono tutti farmacisti iscritti all'ordine. Peraltro questa faccenda ha prodotto anche 10.000 nuovi posti di lavoro fra le farmacie indipendenti e quelle della grande distribuzione, i farmacisti che, viva Dio, hanno potuto finalmente esperire la propria pratica e mettere in campo i propri studi, cosa che non avrebbero mai potuto fare in una farmacia, visto che oramai le farmacie sono diventate un oggetto di tramanda di padre in figlio. Peraltro, in abbinata a questa si tramanda in padre e in figlio, ma nel frattempo poi la legislazione ha aperto anche le società di capitale, quindi esattamente, e questo è il punto sul quale c'è, cioè, questo decreto tra l'altro oggi si stanno rendendo conto anche i farmacisti che ha arrecato dei danni pure a loro, perché sta andando in una direzione opposta di ciò che è il decreto per le liberalizzazioni, perché in realtà si sta tendendo con l'apertura del 20% del mercato regionale alla possibilità dell'immissione di capitale privato, alla nascita di monopoli. Le dico di più, nel settore commerciale, quindi un supermercato, quando apre e quando compra ed entra nel mercato, quell'obbligo del 20% è su base provinciale, mentre invece nelle farmacie l'hanno realizzato su base regionale. Aspetti, qui dobbiamo rinfrescare a chi non è esperto la materia. Noi abbiamo avuto tradizionalmente, cari ascoltatori, una delle norme sulla proprietà, la titolarità delle farmacie, che erano titolarità di persone fisiche o cooperative. C'era un limite, cioè si potevano avere 4 farmacie al massimo in forma cooperativa o altrimenti individuale, e per così dire, da una parte era un meccanismo di controllo all'accesso alla professione farmaceutica, che era monopolista nell'offerta dei farmaci, che viene però superato dal fatto che entrano le società di capitale, entrano quindi le grandi reti di gruppi, non solo italiani, noi abbiamo un grande gruppo italiano che è diventato multinazionale nel mondo, certo, di rete farmaceutica, e devo dire, Ornella Barra e il suo compagno sono due persone straordinarie, però capite che muta in maniera significativa, perché in quel caso saltano questi criteri. Io sono favorevole perché dico facciamo entrare il mercato, ma a quel punto però facciamo entrare il mercato in tutte le componenti, non solo nella componente proprietaria delle farmacie, che spezza il vecchio ordinamento, ma per il resto dando più risorse a queste nuove catene. Questo è il punto un po', o no? Questo, ma non solo. Allora, si sta parlando tanto dell'ingresso nel canale della grande distribuzione di Aldi in Italia. Se Aldi compra una catena, nel momento in cui compra la seconda, lui può comprare e su base provinciale non deve superare il 20%. E gli altri invece? Nel mondo delle farmacie, quel 20% è su base regionale. Dice, vabbè, ma che cambia? No, cambia molto. Sì. Perché una farmacia a Roma non fa il fatturato di una farmacia che sta nelle montagne di Rieti. Come evidente. E la copertura di quel 20% non è una copertura sul 20% del totale del fatturato che fanno le farmacie nella regione Lazio, ma il 20% della numerica delle farmacie. Sì. Lei capisce bene che è un'autostrada costruita fuori di qualsiasi logica nel mondo dell'antitrust per favorire ingresso di capitale, tra l'altro creando immediatamente un settore monopolista. Quindi io sono favorevole in generale all'ingresso dei capitali, cioè non è questo, no, il punto, certo, ma è... Però è la simmetria di far avvenire questo nel mondo delle farmacie, nel frattempo però tenendo altissima la saracinesca, esempio appunto, prodotti di farmacie, e questa è una cosa che è abbastanza complicata. Ma io sono curioso di una cosa. Le volte che le è capitato a lei, a chi vi rappresenta, di parlare con il politico, la risposta dei politici quando esponete questi argomenti, in tutti questi dannati anni in cui sono rimbalzate contro il muro, qual è stata? Cioè, perché allora, vi hanno detto no? Primo, questo decreto sulla liberalizzazione, il decreto legge delle liberalizzazioni, è qualcosa che si dovrebbe fare ogni anno, e ci abbiamo impiegato 3 anni per fare il primo. Esatto. Quindi vuol dire che tutta questa discussione è durata 3 anni e per produrre un topolino che più che liberalizzare ha creato più vincoli di prima. Quindi già questo la dice lunga. In realtà i politici sono tirati dalla giacca, dall'uno, dall'altro, e a seconda dei momenti hanno indirizzato dei non cambiare. Uno degli obiettivi per far entrare il capitale è anche un altro. Pensi, una nostra parafarmacia sviluppa mediamente un fatturato di 1.300.000 euro e noi non vendiamo i farmaci né di classe C né ovviamente quelli del servizio sanitario. Certo. La farmacia media in Italia fattura 1.300.000, il che significa che esistono tutta una serie di farmacie che vanno sovvenzionate e tutelate perché producono un servizio in luoghi dove la farmacia ci deve essere, ma non c'è giro d'affari e fatturato, e tantissime altre che invece sviluppano, perché questo è il polo di Trilussa, 1.300.000, che è fatto dalle farmacie nei centri delle grandi città che sviluppano più di 5, 6, 7, 8, 10 milioni e quindi estremamente profittevoli, e quelle altre povere farmacie rurali che invece non riescono a chiudere il loro conto economico. Molte di queste sono in situazioni di quasi default, e allora attraverso questa operazione si sta cercando di sopperire a questo rischio di default che è generalizzato, facendo entrare del capitale e modificando l'offerta nelle farmacie. Ora, io non so come andrà a finire, quanto il privato riuscirà ad entrare, ma ci siamo posti il problema di quelle farmacie rurali che comunque devono dare un servizio al cittadino? Io fortunatamente abito in una città più che ben servita, che è Parma, ma se fossi un cittadino di Fornovo, che è in provincia di Parma, ma che problema forse me lo creerei, ancora peggio se fossi in un comune ancora più piccolo. Allora, qui si sta facendo un gioco che ancora una volta non guarda alla dimensione complessiva degli interessi di un paese, ma sta guardando degli interessi di parte. E comunque è un gioco, viziato da una visione asimmetrica, perché se uno da una parte apre e dall'altra chiude, ma in realtà trascurando i numeri certificati che abbiamo detto e che avrebbero un impatto anche per chi ha meno reddito in Italia, beh, è singolare che la politica poi non trovi il modo di giustificare questa sua maniera di procedere a zigzag. Evidentemente c'è chi è più bravo nel rendere captive la politica, il legislatore, e a secondare i propri interessi, ma è molto difficile, anzi è impossibile, diciamolo pure, identificare questi come interessi generali, equilibrati. Ecco, però io sono sicuro che con Francesco Pugliese, che ringrazio, torneremo nei prossimi anni a parlarne. Speriamo che un giorno la politica ci dia le risposte che sarebbe opportuno che desse, non per assecondare la CONA dalla grande distribuzione, Pugliese che è un testardo, ma perché, come vi abbiamo spiegato, ha guadagnarci siete voi che siete in ascolto come cittadini. Allora, intanto grazie a Pugliese, adesso andiamo a un'interruzione per un po' di pubblicità, vediamo che cosa avviene in borsa e poi torniamo occupandoci dell'equo compenso delle professioni. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Ed eccoci tornati qui in diretta dal studio di Milano dopo le parafarmacie, che anche questa, a questa legge della concorrenza aspetteranno la prossima per avere i farmaci di fascia C. Una delle bocciature dell'antitrust, dei pareri messi ieri, quello contro l'equo compenso. L'equo compenso, ve lo ripeto brevissimamente, era un emendamento nato nel decreto fiscale, inizialmente proponeva l'introduzione dell'equo compenso in qualche misura al recupero delle tariffe minime che erano sparite per la professione forense, poi emendamento trasversale passato a larga maggioranza l'ha esteso a tutte le professioni ordinistiche e non. E l'autorità della concorrenza dice no, perché testualmente leggo dal parere pubblicato ieri nel bollettino, così viene sottratta la libera contrattazione tra le parti la determinazione del compenso dei professionisti, anche se in realtà è limitata a determinate categorie di clienti, e quindi l'antitrust dice no, è un problema che consideriamo già risolto, perché tutte le volte che in passato ci occupammo della questione delle tariffe minime, sulle quali però passano gli anni ma il confronto resta aperto tra chi ha sempre detto no, non servono affatto a ciò per cui venivano dichiarate ed erano praticate, e altre che dicono e invece sì, e c'è, continua a esserci più bisogno di prima visto il calo dei redditi dei professionisti in questi anni di crisi. Allora, per spiegarci come la pensano, abbiamo con noi Alessandro De Nicola, avvocato, presidente dell'Adam Smith Society. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, avvocato. Buonasera, buonasera. E Armando Zambrano, che è il presidente della rete delle professioni tecniche, nonché il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La rete delle professioni tecniche è una delle associazioni, come vi ho detto all'inizio, che già hanno convocato a Roma per al Teatro Brancaccio, dopodomani il 30 novembre, un confronto aperto con la politica, proprio a sostegno del diritto all'equo compenso, che invece è bocciato dall'antitrust. Iniziamo da una tesi più favorevole all'antitrust, cioè quella dell'avvocato De Nicola. questione lunga, quella delle tariffe minime. In che cosa secondo lei non ha ragione chi dice che bisognava tornarvi, sia pur sub specie, dell'equo compenso, e perché ha ragione invece l'antitrust secondo lei? Beh, dunque, ha ragione l'antitrust per, prima di tutto per un motivo molto semplice, che questa storia dell'equo compenso viene in parte giustificata con il fatto di garantire dei redditi dignitosi ai giovani professionisti. Ora, l'equo compenso, come ha anche notato l'antitrust tra le righe, è una cosa che invece favorisce i professionisti già affermati. Faccio un esempio molto semplice. Se devo far fare un decreto ingiuntivo, parliamo di avvocati, a 1000 euro, e questo diciamo che è l'equo compenso minimo, preferisco farlo fare a un avvocato che ha 30 anni di professione, conosce tutti in tribunale, conosce magari i funzionari della banca o dell'impresa grande o medio grande che deve far fare il decreto ingiuntivo, piuttosto che magari a una giovane avvocatessa che ha 5 anni di esperienza, che sarebbero più che sufficienti per fare un decreto ingiuntivo, brava, però non ha le conoscenze, non ha il nome, la reputazione, e che magari se potesse offrire 800-700 euro lo prenderebbe lei. Quindi la differenza non è tra beccare 700 euro o beccarne 1000 per la giovane avvocatessa, è tra 700 e 0. E non è solamente 700 e 0, è tra la possibilità di crearsi un avviamento, una clientela, una reputazione, un'esperienza che tu puoi avere all'inizio della professione anche apprezzando, ma come forse è giusto, nel senso che la tua prestazione, sei giovane, sei all'inizio, vale meno di quella di un professore universitario affermato, è anche giusto che sia così, e invece così per legge si dice no, non va bene, non lo puoi fare. Poi la seconda cosa che è un po' assurda è che si dice che ad esempio gli avvocati, ma questo vale per molte altre professioni, si sono impoveriti. Ora, è vero che il reddito medio IRPEF degli avvocati è calato negli ultimi 8-9 anni, ma è calato non perché sono calati i prezzi o è calata l'attività, ma perché sono aumentati enormemente gli avvocati. Faccio solo un numero, ma breve. Il nostro PIL tra il 2007, ultimo anno prima della crisi, e il 2015, ultimo anno che disponibile per i dati della Cassa Forense, il nostro PIL nominale è aumentato del 2,5%. Il reddito IRPEF degli avvocati nel loro complesso è aumentato tra il 18 e il 20, il che vuol dire che la torta si è allargata molto più del PIL. Gli avvocati hanno sofferto come categoria e come volume d'affari molto meno delle imprese, molto meno di quelli che sono rimasti senza lavoro, solamente che essendoci ogni anno 10.000 avvocati in più, ovviamente per quanto si aumenti la torta ci sono troppi commensali in più. Quindi non è vero che ci sia meno volume d'affari della professione legale. B, si svantaggiano i giovani. C, ultima cosa, se tu fai l'equo compenso, siccome adesso grazie al disegno di legge della concorrenza è possibile per banche, grandi imprese, assicurazioni mettere su i propri studi legali, sì, perché possono partecipare con il capitale. Sì, lei mi insegna che è studioso di impresa, che c'è la scelta tra buy, make or buy. Se mi costa meno mettere su una cosa che mi faccia tutto quanto piuttosto che pagare l'equo compenso a 300 avvocati sparsi nel territorio, ci penso su e faccio una cosa da me che mi costa meno e la controllo io. Quindi alla fine rischia di ritorcersi contro gli stessi che l'hanno proposta. Ok, sentiamo Zambrano invece. Le vostre ragioni che dicono no, sbaglia l'antitrust, l'equo compenso è una cosa giusta e bisogna che resti. Ma assolutamente sbaglia, ma tra l'altro credo che l'avvocato abbia letto una norma diversa da quella che conosco io, perché l'equo compenso non è il ripristino delle tariffe, è garantire appunto un compenso giusto e proporzionato alla qualità e alla quantità della prestazione. Non voler l'eco compenso vuol dire che l'articolo 36 della nostra Costituzione andrebbe eliminato. Quindi noi stiamo chiedendo solo il rispetto di una regola che vale che per tutti e che per i lavoratori dipendenti ha tutta una serie di controlli, di procedure e di garanzie, che invece per i lavoratori autonomi non viene riconosciuta. Ora, la verità è che non sta tanto in piedi il ragionamento dell'avvocato sul fatto che ci sono i decreti ingiuntivi che potrebbero essere fatti dai professionisti giovani, i quali, poveracci, dovrebbero offrirsi solamente per costi più bassi, per prezzi più bassi, perché non hanno le conoscenze, non hanno i rapporti, non hanno, come dire, quel know-how di... No, però è vero che le tariffe evolvono in ragione perché non c'entrano niente del prestigio riconosciuto. Non c'entra assolutamente niente, soprattutto per i giovani, tant'è che tutte le categorie professionali giovani di tutti gli ordini professionali hanno invece aderito alla manifestazione dell'ecocompenso. Quindi questo falso mito dei giovani che vogliono proporsi sul mercato a prezzi più bassi, ma non puntare invece sulla qualità e sulla capacità professionale, qualcosa non che non l'ha detto veramente. No, questo non l'ha detto. Non ha detto che non puntano sulla qualità. Ha detto che purtroppo, poveracci, non hanno i rapporti con i magistrati, non hanno i rapporti con chi può aiutare a portare avanti un decreto ingiuntivo. La trovo veramente un ragionamento abbastanza minimale. Ma noi non stiamo chiedendo il ripristino delle tariffe, stiamo soltanto evidenziando come ci debba essere una difesa dei professionisti quando committenti forti possono pretendere di dare incarichi a quattro soldi. Ora, il principio che possono farsi delle società, anche le banche, non muta nulla rispetto a questo, perché evidentemente potranno continuare ancora di più nell'ambito di queste attività professionali dare incarichi in funzione di importi sempre più bassi, ragionando sempre con la forza che hanno questi committenti. Allora, qual è il principio? Il principio è fare in modo che ci sia una tutela. D'altra parte, lei conosce, perché mi pare che ci siamo sentiti in un'altra occasione, Quella famosa sentenza di Catanzaro, Che ha avuto la spudoratezza di sancire la legittimità dell'economia dell'immaginario, cioè che a fronte di un euro per una prestazione che vale 350.000 euro più o meno, il professionista dovrebbe accontentarsi appunto dell'euro, ma poi diciamo della fama di altre, e questo è molto grave, e di altri compensi che in qualche modo deriverebbero dall'assunzione dell'incarico, il che si rende conto è anche abbastanza pericoloso. Quella era la sentenza iperlimite, diciamo così. Allora da lì si è scatenato, come dire, la possibilità di avere l'eco compenso, che nonostante l'avessimo chiesto nello Jobs Act e c'eravamo arrivati anche vicino. Beh, loro hanno finalmente, quando è arrivato 3 anni dopo il Jobs Act, questo statuto degli autonomi che si deve al sottosegretario Nannicini, il governo Renzi, in limite mortis del governo Renzi è arrivato, lì c'è un riconoscimento generale però, ecco, del fatto che contro l'abuso della dipendenza economica del professionista, che è comunque un riconoscimento di equità, non è la formulazione esplicita dell'equo compenso, ma comunque è un principio generale. Comunque, avete sentito l'avvocato De Nicola e il presidente Armando Zambrano della Lettera delle Professioni Tecniche, le due opinioni radicalmente diverse. Adesso poi bisogna vedere la politica cosa fa. Io scommetto sul fatto che la politica fa restare il decreto esattamente così come l'ha approvato e che non ascolterà l'antitrust, però posso sbagliarmi. Adesso andiamo a sentire che cosa accade sulle strade e poi torniamo anche con le vostre telefonate. La versione di Oscar. Allora, ecco compenso, decreto fiscale reintrodotto, l'antitrust lo boccia, dice no, abbiamo già parlato per anni di questa questione, è un limite alla concorrenza. La concorrenza che l'avvocato Nicola vi ha spiegato si può esercitare a vantaggio dei più deboli, perché nell'ingresso al mercato hanno obiettivamente, no, la possibilità così di portare a casa lavori che altrimenti gli verrebbero negati al di sotto dell'equo compenso, e che non lo fanno perché si vogliono umiliare, ma semplicemente perché c'è un ingresso a stadi che viene riconosciuto nel tempo, nella professione, e all'inizio è più problematico. Armando Zambrano, presidente della rete delle professioni tecniche, dice neanche per idea, non c'entra niente, non è la vecchia tariffa, ne abbiamo bisogno assolutamente per tutelare i soggetti deboli, perché altrimenti andiamo qui a tariffe simboliche che poi celano scambi di altro tipo, che sono disonorevoli, impropri, se non illegittime per gli stessi professionisti. Vediamo come la sento, come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Carlo da Udine. Carlo, prego. Pronto? Eccoci, dica, in diretta. Buonasera Oscar. Allora, niente, io volevo semplicemente dire questo. Sono tra l'altro un ingegnere libero professionista, condivido il pensiero del nostro presidente Zambrano. Allora, le professioni, le libere professioni sono l'anello di congiunzione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato. Con queste manovre qui di annullamento dei minimi tariffari, ma non chiamiamoli minimi tariffari, chiamiamoli proprio dei compensi minimi, perché la tariffa... Oddio, più che anello di congiunzione a volte è proprio un ruolo sussidiario, perché insomma alcune figure professionali fanno fede pubblica con la loro firma sui progetti, sulle cose... Sì, assolutamente, sì. Ma quello che volevo dire è che quando noi andiamo a togliere un minimo compenso, andiamo a innescare tutta una serie di interessi collaterali che nulla hanno a che vedere con l'interesse che il professionista deve in qualche modo tutelare del proprio committente, che sia la pubblica amministrazione o che sia un privato, non fa differenza questo. Nel momento in cui noi accettiamo che un professionista svolga il suo compito a costo zero o comunque al di sotto di quelli che sono i costi per il mero svolgimento del proprio incarico, al di là di quelli che possono essere utili o guadagni, profitti del professionista, noi stiamo andando a creare una situazione di debolezza assoluta della categoria, oppure di interesse alternativo. Perfetto, perfetto. Allora, ci ha dato la sua opinione. Sentiamo Carlo da Grosseto. Carlo. Sì, buonasera. Io sono invece un farmacista, sono un farmacista dipendente. Sì. E da sempre, e per scelta, quando è stato il momento della liberalizzazione, cioè o meglio della introduzione della parafarmacia, non mi sono dedicato per vari motivi. Di fatto ho sempre ritenuto un'ibridazione che già dalla nascita comunque ha una sua funzione ben precisa, che è quella per la quale è nata la parafarmacia. Sicuramente per sparigliare gli introiti, gli incassi, senza dubbio, creare soprattutto poi laddove c'è la necessità una prima un primo soccorso, diciamo, con piccole quantità di farmaci che potevano diciamo sostenere piccoli malanni, ma di fatto oltre a questo non ci doveva andare, perché sennò tutti, a cominciare da me, capendo che poi, perché il passo di cui stava parlando il titolare emerito della Conad, il passo successivo chiaramente la grande distribuzione è quella di trasformare la parafarmacia in farmacia. Allora mi scusi, ma siamo tutti proprio bischeri noi farmacisti dipendenti, che non ci siamo imbarcati in questa cosa? No, ma nessuno dice questo, però lì ci sono i farmacisti, e quei farmacisti, quei 11.000 in più, prima non c'erano, e quindi come sarebbe bischeri? Quelli hanno trovato un lavoro proprio perché è giusto che ci sia un farmacista lì, e quindi perché questo dovrebbe essere un problema? Era meglio che non ci fossero quei posti di lavoro? No, guardi, tra le altre cose io sono stato anche presidente dell'associazione sì. Farmacisti non titolari qui di Grosseto, quindi io dal punto di vista di là da quelle che sono le barricate... Ho capito il suo spirito, certo. No, assolutamente, io non sto parlando di quello, sto parlando che la sofferenza di cui lui parlava per le farmacie sì. rurali, sì. la sofferenza economica in realtà diventerebbe una tragedia con il passaggio della fascia C alla parafarmacia. Cioè, forse quelle lì sono quelle piccole farmacie, e io parlo di una provincia che è molto vasta e ha pochissimi abitanti, però ha tante farmacie. Ha tante farmacie disperse per i centri. Esatto. Si figuri. Sarebbe veramente un problema. Però adesso io, preso atto che lei sostiene questa cosa, l'effetto è che lei ci dice meglio una distribuzione non efficiente da sostenere, perché altrimenti quelli andrebbero, quella sofferenza di cui parlava, al limite della sussistenza, no? Per le piccole farmacie, meglio non metterla in crisi, però il prezzo da quella, dall'altra parte è prezzo praticato per quei farmaci più elevato dell'ordine del 15-20%, e questo riguarda invece i cittadini e i pazienti. È un po' questa la scelta, cioè riorganizzare i settori avendo qual è la priorità da avere? Le stampelle a chi è in difficoltà, o nella comprensione di chi chiede sostegno per questo, lo sviluppo verso un beneficio finale per il cliente con un'organizzazione più efficiente? Ecco, io mi limito a questo. Ringrazio i nostri ospiti, quindi l'avvocato De Nicola e Armando Zambrano che abbiamo avuto prima. Grazie a voi l'ascolto, appuntamento domani alle 8:15 con me e Luca Talese come sempre 24 mattina, e poi nel pomeriggio alle 4 la versione di Oscar come sempre. Buona continuazione.